9 in punto, la versione di Oscar. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 16 di febbraio e auguri a Giuliana, questo è il santo per chi osserva il calendario liturgico. Brevissime osservazioni come sempre prima di andare al punto, il punto che affrontiamo oggi è la domanda del lancio, l'avete sentita, ci tornerò tra poco, è molto semplice perché trae uno spunto dalla riforma del mercato del lavoro lanciata in Spagna dal presidente del Consiglio, il premier Rajoy, ed è relativa al fatto che si possono licenziare senza filtro giudiziale anche i dipendenti pubblici. Prima di quel punto, per chiederci cioè se anche in Italia, visto che c'è un tavolo aperto al mercato del lavoro, non trarre buon esempio, oltre che da quelli tedeschi, ne parlammo la settimana scorsa quando facemmo la puntata sulla riforma del lavoro fatta con i quattro pacchetti ARTS, non ispirarsi anche a questo bel esempio spagnolo, brevi osservazioni su perché anche oggi c'è The End ai Doors, quindi diamo un'occhiata in un minuto e mezzo a cosa succede in Europa, lo sapete, ritardo ulteriore per l'accordo europeo-greco. Il ritardo sta assumendo i contorni di uno scontro politico vero e proprio. Ieri Wolfgang Schäuble, oggi domina su tutti i giornali tedeschi, dalla Frankfurter Allgemeine alla Handelsblatt, ieri Wolfgang Schäuble in una conference call radiofonica si è chiesto esplicitamente se i greci non debbano posporre le elezioni previste in aprile. Il vice capogruppo del CDU al Bundestag, Johannes Singhammer, è stato anche più esplicito e ha detto i greci dovrebbero chiedersi proprio se è il caso di farle queste elezioni, non solo di posporle. E c'è un portavoce del, senza nome, ma insomma il portavoce del governo su Handelsblatt che ribadisce che c'è un enorme problema irrisolto di fiducia da parte dei greci anche dopo il voto del Parlamento greco. Per questo il presidente greco, risposta invece che trovate sui giornali greci come Katamerini, Carlos Papoulias, ieri in incontro con i capi di Stato Maggiore delle forze armate greche, ha detto chi è il signor Schäuble per insultare i greci, chi sono questi olandesi, chi sono questi finlandesi per venire a dire a noi che non dobbiamo fare le elezioni. E questo è un capo di Stato, non stiamo parlando proprio di questo, per darvi l'idea dei toni che ci sono sui rispettivi giornali tedeschi e greci. Su Financial Times, come ieri, vi segnalo quello che secondo me è il pezzo più dettagliato se davvero professionalmente vi dovete occupare delle operazioni di swap dei titoli greci, come ieri nel pezzo di Peter Spiegel c'erano sul Financial Times particolari e opinioni di studi legali professionali e di centro studi di grandi banche sui tanti dettagli irrisolti e le tante complicazioni a cui bisogna stare attenti se avete clienti o se voi stessi avete per caso in portafoglio titoli greci. Anche oggi leggete Financial Times, Peter Spiegel, secondo me è il miglior pezzo che io abbia visto almeno questa mattina. Presto, bilancio delle privatizzazioni greche intanto, chieste e impegnate per il governo greco l'anno scorso 50 miliardi, bilancio che trovate impietoso fatto da Katamerini oggi, il giornale greco. Alla fine i greci avevano detto all'Europa che sarebbero stati realizzati almeno 5 miliardi, poi in realtà a oggi non ne è entrato nemmeno 1.8, siamo a 1.7, e questo per darvi l'idea di come i greci poi promettono e non mantengono. Voi direte è stato difficile realizzare per il mercato, no, il più delle privatizzazioni non sono avvenute perché semplicemente i greci non hanno messo in atto le procedure che avevano comunicato e contratto con l'Europa per metterle in atto. Giornali in Francia, campagna per le presidenziali per Le Figaro, il 56% dei francesi in un suo sondaggio dice che la decisione ufficiale di Sarkozy di candidarsi e il suo primo discorso non cambia nulla, e quindi significa che resta sempre sotto nei sondaggi rispetto a Hollande. Ma a Sarkozy prima botta va bene, perché la revisione di Eurostat della crescita dell'ultimo trimestre dell'anno scorso, che era a segno meno prime valutazioni era meno 0,2% e invece un più 0,2%, quindi era ancora in espansione, sia pure debole. E infine un ultimo segnale, questo lo prendo dalla Financial Times Deutschland, al consiglio della BCE inizia qualcuno a essere dissidente verso il TRO e le aste di liquidità a collaterale deboli, verso le quali invece tutti sono molto grati, perché sono quelle che hanno fatto cambiare il segno di fiducia europeo, con Mario Draghi, quella di inizio gennaio e quella prevista tra pochi giorni a fine febbraio. Nel Financial Times Deutschland dice che il membro del board, Erkki Liikanen, quindi il finlandese, ha criticato con una certa durezza l'eccesso di liquidità. Primi segni che, come si vede, l'ala rigorosa, ancora una volta, la Finlandia insieme all'Olanda compone la prima linea insieme alla Germania, dice stai attento Mario a non andare troppo sul pedale di politica monetaria lasche. Fine delle osservazioni europee che spiegano perché i Dolls, e perché io non do retta a chi dice che tutto è finito e tutto risolto, abbiamo i due Super Mario. Non è proprio così. Domanda di oggi molto semplice: la riforma del mercato del lavoro varata in Spagna la scorsa settimana e che interviene su un mercato del lavoro che era già molto più flessibile del nostro, interviene con una bella novità che ci facciamo spiegare, riguarda i lavoratori pubblici. Sono con noi in questa prima parte della trasmissione Michele Boldrin, che saluto e ringrazio, insegna alla Washington University di St. Louis, è coautore di un libro che fece molto parlare perché levava la testa rispetto al mainstream, all'allineamento dell'allora ministro Giulio Tremonti, Tremonti istruzioni per il disuso si chiamava quel libro, ed è collegato con noi perché lui insegna e conosce bene anche la Spagna. Quindi Michele Boldrin, buongiorno e grazie. Buongiorno Oscar, grazie per l'invito. Grazie, perché sta in piedi, perché è in America, quindi dobbiamo essergli molto grato. E con noi anche Eusebio Val, corrispondente in Italia dell'Avanguardia di Barcellona. Buongiorno Eusebio. Sì, buongiorno Oscar, buongiorno. Allora Michele, ci puoi spiegare in cosa consiste sul settore pubblico, e più in generale spiegarci meglio la riforma del mercato del lavoro in Spagna rispetto a quello italiano di cui si parla, quali sono i punti di differenza e come funziona, e perché cioè, malgrado siamo alla disoccupazione che c'è? Dunque, mamma mia, quante domande. Allora, il mercato del lavoro spagnolo in realtà non è tanto diverso dall'italiano, ci sono delle cose diverse, non voglio entrare nei dettagli perché non so quanti minuti ho, tipo la cassa integrazione non c'è, però la difficoltà lì c'è, non c'è neanche l'articolo 18 in senso stretto, ci sono delle cose simili però. È un mercato duale, tanto quanto l'italiano, anzi peggio, nel senso che in Spagna il processo di creazione di contratti temporali, atipici, non garantiti, strani, diciamo così, è iniziato prima, è iniziato a metà degli anni Ottanta, e quindi in realtà la dualità del mercato è ancora più accentuata. Bisogna tener conto che i numeri che normalmente si usano dei tassi di disoccupazione sono distorti, perché sono distorti nella comparazione con l'Italia. Il tasso di occupazione nell'età in cui si lavora normalmente, cioè fra i 16 e i 64, che è quello che conta, in Spagna è ancora leggermente più alto che in Italia, nonostante il tasso di disoccupazione sia praticamente ufficiale, sia quasi il doppio, e questo perché la partecipazione al mercato del lavoro in Spagna è molto più alta che in Italia. Comunque ci sono delle differenze, ci sono delle analogie. Cosa fa questa riforma? Beh, è una riforma molto coraggiosa, anche se come tutti abbiamo sottolineato, in particolare i miei colleghi, ci sono anch'io di Fedea nel blog Nades Gratis, per chi legge spagnolo, ma comunque abbiamo seguito questa cosa di riforma del mercato del lavoro da 4 anni a sta parte, abbiamo fatto un documento molto noto in Spagna, il documento dei 100, abbiamo spinto parecchio. È una riforma buona, però parziale. Parziale perché non hanno il coraggio di introdurre il contratto unico, cioè di abolire tutti questi pseudo contratti assurdi, di eliminare i fattori di dualità e uniformare il trattamento, la legislazione del mercato del lavoro. È buona d'altro lato perché comincia a affrontare in maniera direi molto decisa, molto forte, molto anche coraggiosa quello che in Spagna è il problema fondamentale, e cioè la difficoltà di licenziare per motivi economici in quelle imprese, in quelle categorie, quei lavoratori che sono protetti, regolati, diciamo, dal contratto standard, quello antico, quello estremamente rigido. E qui se vuoi entro nei dettagli, ma questa è la cosa fondamentale. In realtà quello del pubblico licenziamento del settore pubblico, io non so che notizie siano arrivate in Italia, non è l'aspetto centrale, è una cosa di dettaglio in realtà in questa riforma. Però aspetta che ti fermo su questo perché di tempo ce n'hai, poi preparare. Però è vero o non è vero? Perché appunto qui ne hanno parlato parlato pochissimo, ma la notizia è uscita così, che anche per i dipendenti del settore pubblico che non sono coperti dalla qualifica di funzionario pubblico, e sarebbero 685.000 su 3.1 milioni, è possibile il licenziamento senza filtro giudiziale ma con indennità economica, e si può procedere a questo licenziamento, chiamato espediente della regolazione d'empleo, nel caso in cui l'amministrazione pubblica di cui si è dipendenti sia in deficit da 9 mesi, è così? Dunque, sì, Oscar, però appunto la parte chiave adesso ho capito, la parte chiave è dalla frase se non sono funzionari pubblici. Sì, sì, no, non vale allora, per i magistrati, sì, eccetera, eccetera. Allora, sì, ma certo, lo erano anche prima, bisogna rendersi conto che in realtà sono una minoranza, perché i funzionari pubblici sono, come hai nominato, sono la maggioranza, mentre quelli non coperti, lo stato di funzionario pubblico, sono in realtà quasi tutti contratti temporali, quindi erano licenziabili anche prima. Quindi per quanto riguarda il settore pubblico, francamente, non c'è proprio un grande cambio, nel senso che il numero di persone che soddisfano i due requisiti di essere funzionario dipendente pubblico da un lato, non essere a contratto temporaneo, quindi facilmente licenziabile comunque, è un numero assolutamente risibile. La questione invece forte è che questa riforma introduce per le aziende private la possibilità di non solo licenziare, ma di cambiare completamente gli accordi contrattuali con una contrattazione aziendale, se l'azienda in questione ha delle difficoltà economiche, appunto, a seconda del dato di età, per un periodo superiore ai 6 mesi. Aspetta un secondo perché dobbiamo richiamarti, perché è troppo cattiva la qualità dell'audio. Allora ti richiamiamo immediatamente al volo se attacchi. Chiedo intanto a Eusebio Val le prime valutazioni di questa riforma, che interviene quindi sul mercato del lavoro a sua volta duale ma molto più flessibile del nostro, sull'opinione pubblica e sui media spagnoli. Eusebio, come sono state, come è stata accolta questa riforma? Bene, io credo che l'importante, perché i dettagli, tutto questo è molto complesso e si verrà come si sviluppa, ma l'importante è che in Spagna si vive come un cambiamento culturale veramente, no? Noi in Spagna abbiamo avuto per molti anni, una cultura abbastanza paternalistica, non so se si può dire così. Sì, sì, in così, italiano, così. Paternalistica. In parte questo è una eredità del franchismo, della dittatura franchista che è finita nel 1975-76. Per avere consenso sociale la dittatura ha protetto molto i lavoratori. In Spagna si guadagnava poco, ma il lavoro era abbastanza sicuro. Allora, tutto questo si cambia e è molto difficile da accettare per la popolazione. Allora, in realtà quindi ci stai dicendo che non piace molto, insomma. Allora, vediamo se intanto la qualità del collegamento con Boldrini è migliorata. Dicevi, Michele, per quanto è un problema secondario, perché riguarda 680.000 su 3.1 milioni dei contratti pubblici, sono la parte dei dipendenti pubblici che erano già equiparati a quelli privati e quindi in quanto tali erano già licenziabili in realtà senza filtro giudiziario. Non riguarda neanche 600.000, perché di quei 600.000 mezzo milione erano già a contratto temporaneo. Quindi quelli in italiano chiameremo precari, già licenziati e tutto il resto. Oh, voi avevate... Riguarderà un 100.000, ripeto, il vero cambiamento, ecco, ha a che fare con le aziende private, il vero cambiamento fondamentale è questo, fondamentalmente dà un apparato legale forte per rendere la contrattazione a livello aziendale la chiave di tutto, perché i contratti nazionali vengono svuotati del loro contenuto economico, e per me, anche se in Italia questo mi rendo conto sia anatema, questo è bene. È altro che, anche secondo me è bene, non so se sia anatema, è anatema per una parte del sindacato e non per l'altra. Rispetto alle richieste, ci hai parlato degli appelli, delle proposte che avevate avanzato in vista di questa riforma del governo, le vostre proposte sono state accolte o si poteva ancora fare di più secondo te? Sì, secondo me si può fare di più, perché qual è il problema fondamentale? Che rimane una cosa sbilanciata, perché continuano a rimanere questi contratti che in Spagna vengono chiamati basura, cioè immondizia, e che in Italia si chiamerebbero di precari. Questo crea questa dualità, continua a rimanere, capisci? E quando c'è una dualità legislativa così forte, con un mercato duale così forte, in cui c'è una parte estremamente poco protetta, diciamo meno protetta di quello che anche persone come io e come te sono sicuro offrirebbero e riterrebbero decente, si creano degli incentivi assolutamente distorti per le aziende, e questo fa danno. Quindi quella è la parte che a me personalmente, anche a molti colleghi, non va bene. L'altra parte invece, ripeto, è estremamente positiva, perché in Spagna il costo del licenziamento era altissimo, superiore a quello italiano, tutto passava, non era impossibile il licenziamento per motivi economici, tutto passava per via giudiziale e quindi c'erano dei blocchi veramente grossi per le aziende grandi, eccetera, eccetera, di riuscire a gestire la loro forza lavoro, i loro dipendenti in maniera razionale, e in particolare era impossibile la contrattazione a livello aziendale, cioè era impossibile che di fronte a una situazione di crisi economica dell'azienda, qui l'azienda si trova di fronte alla scelta fra fare, continuare a fare perdite, quindi rischiare poi di fallire, oppure entrare in una ricontrattazione con i propri dipendenti, dire sentite, 50 su 400 se ne vanno, riduciamo il salario qui, aumentiamo un po' l'orario lì, però rimaniamo in piedi e salviamo 350 posti di lavoro con un futuro di crescita. Questo era impossibile prima. Adesso con questa riforma diventa possibile, e questo a me, avendo in mente la situazione spagnola di una valanga di imprese medio-grandi o piccolo-medie, sono dai 50 in su, dai 20 in su, in situazioni di difficoltà che potrebbero superare con una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro, credo che sia una buona notizia. Allora, due domande per te, Michele, su due punti che sono aperti anche sul tavolo della riforma italiana. Primo, visto che hai accennato alla questione contratto unico e contro i contratti immondizia, invece quelli del precariato. Allora, la strada da percorrere lì, secondo te, è che, come ribadivano ieri ancora sul Corriere della Sera Alesina e altri, bisogna che i contratti immondizia, per farne diminuire il numero, comportino soluzioni per le quali chi ha meno diritti deve avere un costo del lavoro che costa di più, evidentemente, oppure la strada che è diversa da questa, seguita dai pacchetti Arts in Germania, per i quali, proprio per combattere lo stesso tipo di male, lo Stato ha deciso, per farlo emergere, perché molte volte erano anche precariati ma in nero, non solo a pochi diritti ma in nero, per farlo emergere ha deciso di abbassare di molto le sue pretese sia contributive che fiscali, lo ha fatto sia sull'impresa ma soprattutto anche sul lavoratore, innalzando fino a 800 euro la quota al mese, per la quale non si paga più del 10% di imposta, ecco, e consentendo la nascita delle HIC e GE, le società IO, che sono in Italia sarebbero tutti contrari perché direbbero che sono finte partite IVA, però in Germania hanno fatto l'esatto opposto di quello di cui si sta dibattendo in Italia e sono emersi 900.000 posizioni che prima non esistevano, o erano non solo precarie ma in nero, perché poi il nero non c'è solo in Italia. Secondo te quale di queste due strade è da seguire? Ma la seconda la capisco e la condivido, e quindi di per sé mi sembra uno degli strumenti. Io non sono di questi che credono che i problemi complessi come questi abbiano una soluzione unica, ci sono varie misure da prendere. Quella che tu stai descrivendo, la tedesca, è fondamentalmente quella che in Italia va sotto la tabella riduzione del cuneo fiscale, no? Esatto. Le sue molte dimensioni, e l'hanno fatta per un certo gruppo di occupazioni, quindi sono assolutamente a favore di quello, che in Italia infatti servirebbe molto, per le stesse ragioni per cui servita in Germania, cioè per far emergere tutta una fetta di occupazioni sommerse, che lo sono sommerse perché altrimenti se emergono il carico fiscale sull'impresa, sui lavoratori è troppo alto. Questa proposta di Alesina e Zavazzi, io francamente non la conosco, non so su che giornale sia uscita, suppongo sia di ieri, io ieri ero molto impegnato, non ho letto i giornali italiani, non riesco a capire neanche cosa abbia in mente, non so cosa stanno suggerendo, che si legiferi una qualche forma di che dice se il lavoratore accetta di poter essere licenziato per motivi economici, allora deve avere un salario superiore del 15%. Era un ragionamento sul costo di assicurazione implicito che il mercato costo tenderebbe a produrre, io credo, però che cosa suggeriscono esattamente per poterlo valutare? Dimmi dove la trovo, No, perché se vai a vedere, loro fanno un ragionamento sul costo di assicurazione, quindi deve essere inversamente correlato alla tutela del posto. Naturalmente non dicevano tecnicamente come, però il messaggio era chiaro, diceva che a quel punto che bisogna pagare di più inversamente al rischio di protezione. Quindi non è vero, ecco, su questo bisogna capire. Dunque, anche secondo me, se loro fanno un'affermazione normativa, io con l'affermazione normativa faccio sempre fatica a mettermi. Se fanno un'affermazione positiva, cioè in mercati uniformi è chiaro che più rischi mi prendo, più tendo a essere pagato, che so, il tipico esempio, se io quando ho finito il mio PhD non avessi scelto la carriera accademica, che anche se rischiosa dopo circa 7-8 anni lo è molto meno perché si riesce ad avere un posto più o meno fisso, e avessi scelto la finanza dove possono licenziarti dalla mattina alla sera, ovviamente mi avrebbero pagato di più, infatti i salari che mi offrivano molto più alti. D'accordo? Quindi, ma questo è un equilibrio di mercato, cioè il mercato, se è concorrenziale, tende a generare questo tipo di equilibrio. Come farlo invece legislativamente dipende, anche perché molte volte ci sono situazioni in cui dipende dalla tua capacità di contrattazione, se poi riesci a strappare molto o meno. Tanto per capirci, in Italia il precario è trattato male, tanto per metterlo chiaro, in un'azienda è da situazioni difficili, perché ha zero potere di contrattazione, mentre il lavoratore protetto ha molta più contrattazione. Ora, se c'è una specie di surplus generato dall'incrocio fra azienda, lavoratore diciamo protetto e precario, questo surplus se lo mangia un po' il lavoratore protetto, un po' l'azienda e zero il precario. Perché? Perché il precario non ha possibilità di contrattazione, non ha potere di bargaining. La creazione di un contratto unico che equipari il trattamento dell'oggi protetto, riducendogli un po' le protezioni, e dell'oggi precario alzandogliele, è proprio quello, per permettere al precario, diciamo così, di appropriarsi di quello che oggi è precario, di appropriarsi di un po' di surplus. Non so se mi spiego. No, è chiarissimo, perché è quello anche la mia obiezione alla tesi Alesina è quella che lo stabiliamo per legge che costa di più chi ha maggior rischio. A quel punto, se lo stabiliamo per legge, diminuisce il numero generale dei soggetti più deboli che in realtà non sono in grado di contrattare una cosa simile. Ma la domanda finale che ti faccio prima di mandarti a letto e ringraziarti, Michele, è questa: in Italia l'idea del contratto unico passa come la generalizzazione del fatto, e questo è il motivo per cui piace molto a sinistra per esempio, del fatto che tutti tenderanno ad avere solo rapporti a tempo indeterminato, con il primo triennio di inserimento sul quale pare che al tavolo del governo si stia realizzando la convergenza a tutele crescenti nel tempo, ma dopo il primo triennio e poco più a quanto pare, ma insomma questa è l'idea della Boeri-Garibaldi, per capirci, tradotta nella proposta di legge Nerozzi depositata in Parlamento, Nerozzi l'ex segretario della CGIL, ma dopo tutti e quindi nel tempo, esaurito il regime di transizione a questo nuovo sistema, tutti hanno il contratto solo a tempo indeterminato, roba che a me fa abbastanza sorridere, perché non conosco una sola società al mondo che vada avanti con rapporti di lavoro tutti solo di questo tipo qua. Ma è questo ciò che avete testa quando, per esempio, gente come te, formazione e opinioni un po' diverse da queste, i volete intendere quando dite contratto unico? Ma neanche per sogno. Appunto, chiariamo. Sono due proposte, ma neanche per sogno. Questa mi sembra veramente una proposta, non ho ben capito perché l'abbiamo fatta, cambierebbe ben poco rispetto alla situazione attuale, ingesserebbe il mercato del lavoro, forse ancora di più, ma voglio dire, nemmeno in un ambiente, se vuoi, ultraprotetto come l'Accademia USA, ti becchi il posto fisso dopo 3 anni, come minimo sono 6, 7, a volte 10 di prova, e quindi questa cosa dei 3 anni buoni per tutti mi sembra assurda, anche perché crea una discontinuità. La proposta di Chino Pietro mi sembra più ragionevole. Certo, c'è un aspetto, qual è l'aspetto che vuoi fare, che vuoi tenere in conto? C'è l'aspetto che quando c'hai non mi viene la parola italiana, Oscar, aiutami, il match fra impresa e lavoratore, c'è un surplus che si crea, questo match è bene tenerlo in piedi e non è il caso di eliminarlo al primo raffreddore. Quindi vuoi creare un incentivo per l'impresa a pensarci un po' due volte a licenziare il lavoratore così, okay? E questo, il valore di questo match cresce nel tempo, cioè se io ho mantenuto uno che lavora con me, lavora bene per 20 anni, c'è un grosso valore lì. Quindi voglio renderlo leggermente più difficile, però si tratta di fare quindi una cosa in cui, diciamo, per esempio i costi di licenziamento crescano col tempo. La riforma spagnola dice: se licenzi qualcuno per motivi economici, devi pagargli un costo di licenziamento, una buona uscita, pari a 20 giorni di lavoro per ogni anno lavorato, 20 giorni di salario per ogni anno lavorato. È vero che è un massimo però fino a 2 annualità complessive di indennità, mentre prima erano 42 mesi. Sì, prima erano addirittura 45 giorni per quando era non protetto. Adesso, sentite, quindi adesso il problema non è fossilizzarsi sui 20 giorni, certo. 22, 2 annualità o 3 annualità. Questa mi sembra una logica accettabile. Trasformare invece il contratto in una cosa assolutamente flessibile a fine 3 anni, poi rigida dopo, francamente non capisco la logica. Ecco, Michele, nemmeno io, e lì volevo arrivare, perché invece pare che sia il punto di convergenza per il momento al tavolo tra sindacati, Confindustria e governo. Io mi auguro che così non sia, saremo pronti a quel punto a spiegare ai nostri ascoltatori e ai lettori di Noise from America, di Chicago Blog, eccetera, eccetera, come e perché, se davvero fosse questa la soluzione. Guardate, ha ragione Michele Boldrin, noi lo irrigidiamo ulteriormente il mercato del lavoro se andiamo a questa roba qua. Io non ci posso credere che questo sia davvero il precipitato del governo Monti, confido di no, però saremo, per così dire, vigili. Grazie a Michele Boldrin e buonanotte a te. Noi abbiamo la pubblicità, siamo già in ritardo. Eccoci tornati in studio, stiamo riflettendo sulla riforma del mercato del lavoro del premio Mariano Ragioni. Abbiamo sentito i dettagli, era già molto più flessibile di quello italiano, ma duale anche lì, con molti contratti immondizia per i giovani. La scelta fatta dalla Spagna non è quella che sembra invece di convergenza in atto al tavolo della trattativa, speriamo di no, tra governo e sindacati italiani, non è quella del contratto unico in cui dopo 3 anni tutti si diventa a tempo indeterminato. E al contrario, si interviene ulteriormente sulla flessibilità in uscita. Già prima il filtro giudiziale non c'era per i rapporti economici. Si dice che non vale anche per 1 su 5 dei dipendenti pubblici che sono licenziabili con indennità senza filtro giudiziale dopo 9 mesi in cui l'amministrazione pubblica è in deficit. Pensate, dice sì, è solo 1 su 5 del totale dei 3 milioni spagnoli. Ho capito, se adottassimo il criterio di 9 mesi di perdita per ente pubblico italiano e si può iniziare a licenziare senza filtro giudiziale, hai voglia la rivoluzione. Dal mio punto di vista, allora andiamo a un punto su Panorama di questa settimana. Trovate diversi articoli di approfondimento che ruotano intorno a un sondaggio, perché noi avevamo letto nei giorni prima molti sondaggi, soprattutto uno che diceva che gli italiani, soprattutto i giovani italiani, pur di avere il posto fisso, erano sondaggi nati in risposta alle dichiarazioni che hanno fatto molto parlare di Monti, della Fornero, della Cancellieri, e i sondaggi dicevano che i giovani italiani, pur di avere il posto fisso, sono disposti a guadagnare di meno, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo qui con noi il direttore di Panorama, Giorgio Mulè, che ringrazio, al quale chiedo, invece i sondaggi su cui avete fatto un pezzo del numero di Panorama che è in edicola, comprovano questa linea oppure ci svelano qualche particolare un po' diverso da questo pensiero comune? Grazie al direttore di Panorama. Grazie, buongiorno a tutti, ciao Oscar. No, ci dicono qualcosa di diverso, è un sondaggio realizzato intanto su giovani tra i 18 e i 27 anni, e quindi è un sondaggio realizzato il 10 di febbraio, questo per dire che è assolutamente in linea col dibattito che si sta svolgendo, e ci dice delle cose diverse. Ci dice che questi giovani sono molto più realisti, non sono ideologizzati, sono pragmatici, e andando ai numeri ci dicono che secondo il 53% di questo campione da noi intervistato è preferibile un lavoro senza garanzie ma adeguato al talento e agli studi fatti. E addirittura il 75%, quindi 3/4 del campione intervistato, risponde che accetterebbe ovviamente un lavoro anche di tipo precario, soprattutto nelle interviste realizzate che si trovano a corredo del sondaggio. Molti giovani all'università o in procinto di entrare nel mondo del lavoro parlano di benvenuta flessibilità, magari sul modello danese, ma ovviamente con guadagni più alti rispetto a chi ha un lavoro garantito. Però c'è una totale, straordinaria consapevolezza che la rigidità legata all'articolo 18 non appartiene a chi è oggi tra i 18 e i 27 anni sta per fare il suo ingresso o spera di fare il suo ingresso nel mondo del lavoro. Domanda al direttore di Panorama, ma tu saresti favorevole o contrario a far cadere il filtro giudiziale per i licenziamenti economici, l'ha già detto Bonanni, ma anche per buona parte di quelli disciplinari, farlo rimanere solo, in altre parole, per quelli discriminatori, e a estendere questa regola anche nel settore pubblico come si è iniziato a fare in Spagna? Sono straordinariamente a favore, quindi mi trovo totalmente su questa linea, mi ci ritrovo totalmente sulla scorta dell'esperienza sviluppata, come dire, in anni di osservazione delle dinamiche del lavoro in Spagna e nei paesi e in numerosi altri paesi, sia europei che americani soprattutto, in cui, come dire, questa griglia che è come una cappa che sta sopra il mercato del lavoro, quindi, e che è un freno vero, vero, è reale, è inutile raccontarsi frottole. Si può serenamente rimuovere, anche perché i tempi, grazie a Dio, consentono, hanno consentito una maturazione, una evoluzione nei rapporti anche tra impresa e lavoratore, che oramai consentono di poterci dire che può andare in soffitta questo tipo di relazione all'interno delle aziende. E l'ultimissima, poi andiamo alla strada, ma il grande premier italiano che fa scrivere a tutti che insieme a Mario Draghi salva l'Italia, l'Europa, forse anche il mondo, il pianeta e l'universo, lo dico con una punta di ironia perché molto di questo ovviamente è vero, però senza esagerare, che la specializzazione italiana alla fine secondo te forzerà con la CGIL oppure no? Che impressione hai? Io dico di no alla, sulla scorta soprattutto di questo balletto, il gatto e il topo oramai, Fornero-Camuzzo, che va avanti da più di un mese, anche cominciando a diventare un po' stucchevole, questo tipo di atteggiamento delle due signore, non ci sarà il colpo di mano al di là e quindi con buona pace dei tabù che non dovevano esserci, della necessità di superare gli steccati, dell'assoluta necessità per il nostro paese di adeguarsi a logiche di mercato del lavoro, ma moderne, non ci sarà nessuna forzatura e si troverà come al solito un compromesso che potrà far dire alla CGIL di aver vinto e poter far dire al governo di non avere perso. Questo per realismo la penso anch'io, come poi il governo può stupirci, vediamo, intanto grazie a lui, buon lavoro, trovate questo sul numero di Panorama oggi in edicola, informazioni sulle strade, poi torniamo con Eusebio Val che abbiamo pochissimo utilizzato fino a questo momento, io mi scuso con lui. Eccoci tornati qui con i Doors puntualmente anche oggi e vi ho spiegato all'inizio perché alcuni ascoltatori hanno evidentemente insospettiti dalle cifre del sondaggio di cui ha parlato il direttore di Panorama Mulè, hanno chiesto chi fosse l'istituto che lo ha realizzato, sono andato immediatamente a controllare il sondaggio, è un sondaggio Euromedia Research condotto in esclusiva per Panorama e trovate poi tutti, sapete che per legge è obbligatorio indicare il metodo con il quale è eseguito, periodo di rilevazione, campione 1000 interviste, universo di riferimento eccetera eccetera eccetera, quindi trovate tutto indicato, comunque è di Euromedia Research. Allora, Eusebio Val, ricordo, è corrispondente in Italia dell'Avanguardia di Barcellona e gli chiedo, la Spagna che ha dato un mandato molto, molto ampio alle elezioni al governo Rajoy, quindi il governo moderato, conservatore dopo gli anni di Zapatero, di fronte a queste misure che sono state accompagnate poi da una nuova manovra per altri 9 miliardi se non sbaglio di tasse, quindi che contraddice anche gli impegni che prima delle elezioni Rajoy aveva detto niente più austerità aggiuntiva, invece arriva. Ecco, la reazione dell'opinione pubblica spagnola a queste misure, qual è fino a questo momento? Resta il consenso che si è espresso alle urne oppure c'è la delusione, la preoccupazione, iniziano a vedersi quei segni che poi si avviluppano come in Grecia fino ad arrivare allo scontro esplicito contro la Germania e la politica tedesca di cui riferiamo ogni mattina, oppure no in Spagna? Sì, naturalmente c'è preoccupazione, c'è opposizione, ma c'è anche il senso de che alcune di queste misure sono inevitabili. Ma il problema è che, per esempio, qui abbiamo parlato della riforma del lavoro, questo è sicuramente necessario, queste riforme sono necessarie, ma non è questa riforma il problema numero uno della Spagna, tutti sono consapevoli di questo. Noi paghiamo ancora le conseguenze di scelte sbagliate di un'economia basata troppo sul settore immobiliare, sul mattone, di una manca di competitività, forse di un stato sociale troppo sviluppato, troppo generoso, che adesso non si può pagare. Questi sono i veri problemi della Spagna. Forse questa riforma del lavoro aiuta un po', ma ci sono altri problemi più gravi. Ma il sindacato, per esempio, ha proclamato scioperi generali, cioè, oppure no? Sì, hanno minacciato con questo e non si può escludere che andiamo verso questa confrontazione. Ma il governo Rajoy ha un vantaggio se si compara con la situazione italiana. Il governo Rajoy ha cominciato a lavorare 2 mesi fa, ha una maggioranza solida in Parlamento, ha tempo per lavorare fino al fino al 2015. Allora è una situazione diversa, e dà un po' di garanzia di che questi progetti possono andare avanti anche se c'è contestazione. Ma in Spagna si ritiene che nel caso in cui il problema greco è ancora aperto, è chiarissimo che c'è una parte di politica europea che preferisce che default pilotato esiti nella fine degli aiuti alla Grecia e nel fatto che la Grecia esca dall'euro. Questo, in questi giorni è evidente che è così, che c'è un confronto vero, si dice di non dargli 130 miliardi ma di dargliene solo 30, di aspettare il dopo elezioni, ma in realtà è chiaro che finlandesi, olandesi, tedeschi preferiscono che esca la Grecia dall'Europa. Rispetto a questo, gli spagnoli e il governo spagnolo cosa pensano? Sulla Grecia? Sì. Non credo che perda molto tempo a pensare su questo. È indifferente, perché c'ha i propri problemi, insomma, ho capito. Vogliamo naturalmente rimanere nell'euro. Io credo che siamo troppi preoccupati con i nostri problemi rispetto per avere questa visione. Lo so, Eusebio, però il problema è che siccome è una specie di domino e qui il primo che esce fa poi ampliare immediatamente per tutti gli altri, Portogallo per primo, ma poi Spagna e Italia il rischio di fare la stessa fine. Io sono concreto e per questo tengo i dors. Sentiamo Francesco da Battipaglia come la pensa sulla riforma spagnola di cui abbiamo parlato oggi. Prego Francesco. Buongiorno dottor Giannino. Sorvolo sui complimenti. L'Italia è stata sempre considerata un po' meglio della Spagna per via del suo apparato industriale, che è molto più evoluto appunto di quello spagnolo. E soprattutto comporta una maggiore percentuale di valore aggiunto sul totale della produzione, sì, rispetto all'industria in Spagna. Ecco, dico questo. Se non ricordo male, il debito spagnolo in rapporto al PIL è del 60% circa, o da quelle parti lì. Beh, è salito con i deficit di questi anni, però era lì, mentre il nostro era già 115, è andato a 120. 115-120%. Quindi una riforma di questo, come diceva quel signore prima in collegamento, una riforma di questo tipo dove si può licenziare per motivi economici, sì, rappresenta comunque un ottimo invito ad investire certo, per le aziende, ma non solo per le grandi multinazionali, anche e soprattutto per le aziende molto più piccole che possono ritenere di andare in Spagna ad impiantare impianti anche piccolini, perché ragionerebbero in questa maniera: l'Italia dovrà rientrare di un sacco di soldi nei prossimi anni, quindi ci saranno comunque oneri per tutti, compresi le imprese. La Spagna invece non avrà questo problema, perché più o meno con il debito sta in linea con i conti che l'Europa vuole. Francesco, la devo interrompere, in più si avvantaggia per la flessibilità maggiore. E così secondo me, speriamo che il governo e i sindacati se ne rendano conto. Comunque la licenziabilità anche per i dipendenti pubblici, concludo come ho cominciato, appuntamento a domani, grazie a tutti.